19, un minuto primo di questo lunedì. Siamo alla quinta puntata di Radio Pirata 38, una puntata tutta improntata sull'assemblea di gestione dello squat. E dovrete partecipare insieme a noi e intanto iniziamo con i punti all'ordine del giorno. Dai, che tracce suggerite? 351 0913 390 per scriverci, mandarci proposte musicali, ma anche contributi, riflessioni. Insomma, facciamola viaggiare questa radio. Diamole un senso, abbiamo fatto intrattenimento, informazione per quanto possibile nelle nostre condizioni un po' separate dall'esterno, quindi proviamo a goderci quest'oretta di lunedì e l'ordine del giorno di questa assemblea aspetta a voi. E stiamo per mettere pompo nelle casse. La sapete o no? Pompo nelle casse. E questo è il video ufficiale. Pompo nelle casse. Pompo nelle casse. Pompo nelle casse. Pompo pompo pompo. Pompo nelle casse. Pompo nelle casse. Pompo nelle casse. Pompo pompo pompo. Pompo nelle pompo nelle casse. Pompone le pompone le pompone le casse. Pompone pompone pompone casse. Chi vibra dentro il ventre la senti la cassa. Botte nella testa con il basso che devasta. Questo è il suono che ti scassa l'impianto. Nella dance floor fumo persino lo smalto. Guarda chi è che spinge più del solito. Calo giù gli alcolici senza arrivare al vomito. Sgomito tra le altre, scuoto le masse. Pompo nelle casse, pompo nelle casse. Pompo nelle casse, pompo nelle casse. Pompo nelle casse, pompo pompo pompo pompo. La mia crew, la riconosci dallo stile. Wow, è French, è sclu, di ogni situazione ostile. Pompo nelle casse, sale la bile. Pronta per sentire la gente svenire. Pompone le casse. Trascorsi i primi 10 minuti di questa nuova trasmissione di Radio Pirata 38 in diretta dal Sesto Ponte del Laurentino 38 in trentottena, niente, 33 trentini, niente, l'abbiamo superati di gran lunga, uno scioglilingue incredibile. E quest'oggi la puntata è iniziata con un grave dramma, la perdita di una cassa che serviva qui all'ascolto. Speriamo, come dire, che questa perdita non sia gravissima, ovvero che si possa ripristinare. La puzza di bruciato ci fa girare la testa da giorni e alla fine ci ha lasciato la cassa. E dunque, mentre qui ci riorganizziamo per ascoltare la musica con voi, intanto arrivano le prime richieste, i primi saluti e tante tanti si stanno mettendo all'ascolto. Adesso non vogliamo, ve l'abbiamo detto, non siamo competitivi, non ci piace, però insomma, facendo una breve ricerca con le altre web radio, non c'è nulla da temere. Radio Pirata 38 ha il suo successo in questi giorni alla grande. Un saluto all'Olanda, sempre presente, dai. You gotta get with my friends, make it last forever. Friendship never ends. If you wanna, yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want.

We'll be right back. Radio Pirata 38 in diretta dalla Trentottena. Per questa puntata di lunedì vi abbiamo proposto di partecipare all'ordine del giorno dell'assemblea di gestione dello squat. Arrivano già le prime proposte, ovviamente musicali. C'è sicuramente da fare un salutone a una rosicona che non ce la fa a raggiungerci, e per questo continua a mandarci delle ottime proposte musicali che noi selezioniamo accuratamente e non ne facciamo passare tutta la monnezza, assolutamente. E l'abbiamo già messa, smentita così in diretta, non mi era mai capitato prima, ma ciò che conta è Via Guareschi, sempre presente, sempre all'ascolto. Ma a me questa persona mi fa sognare. Una delle notizie sicuramente interessanti di questo momento è che Zuckerberg, quel grandissimo uomo ricchissimo che possiede tantissimi soldi e che ovviamente non è nostro amico, dice che se l'epidemia si espande i server di WhatsApp schioppano, e questa cosa noi ce l'auguriamo, fa parte dei nostri sogni, speriamo che schioppi un po' tutto e che noi siamo sempre meglio, perché la vita a cui ci hanno destinato fa un bel po' schifo. Chissà, se schioppa tutto magari va tutto un po' meglio. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'instant déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la mova, la valira, paradis. Des cycles différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, ils se prennent, se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Arriva un'incredibile smentita dall'Olanda rispetto la veridicità di questa notizia che vi abbiamo dato poco fa, di questo allarmismo zuckerberiano. E come dire, noi speriamo sempre il peggio. Ancora buon ascolto. È il minuto di silenzio che vi volevamo dedicare. Dorio, Dorio, ci trovo in Dorio. Non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, dinte frase nostra, rivoluzione. Chi se suono nuovo, sai che è malamore. Ci trovo in Dorione, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, dinte frase nostra, rivoluzione. Chi se suono nuovo, sai che è malamore. Ci trovo in Dorione, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, dinte frase nostra, rivoluzione. Chi se suono nuovo, sai che è malamore. Ci trovo in Dorione, non mi sento buona, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, dimmi frase nostra, rivoluzione. Il suo suono nuovo, sai che è malamore. Sì, corro in macchina, fumando un coppe cuofre. Prima fati con microfono, e cose rossa a chi ci prova. E troia a chi si trova, Luca produce, tinte strove. E povera, e non fama, che te fanno muore. Se Dorione, chi sta rindo, veste buono. A moglie spenna e se pompa, aglione che penne. In Dorione, in taglio vero, t'offro un taglio a due barbiere, poi da roba. Tremma mentre a stregno, ferro, capatello, l'ombra. Frate contro a frate, mettete pure la mano in fronte. Ma nata le con ma capi, chi porta in masciata. Sto mondo non so più di un meglio di lui. Tutto l'acqua perché l'aria chi ne raggia fra. So frate incatenato, e la vita scorre innanzi a luce. Mentre lui fra, sto camiscando, caffè latte, cappuccino. Per manarire, ne hai a capa mica non cammino. So cresciuto con chi venne, cagna e marci in mano. Sembrava tutto fermata, senza bisogno dei pane e mo. C'è vira rinde in macchina, che rode più grosse. Le capano se fanno apposta, si ci guardano. Ma insomma classica, pisciazzi le napano. Casetta d'Alessia, roba fallo già cattivo. E ci fa tutto quanto e tutta coca che si vira. Non gompe, spusarsi, ci sono stata tu sacci callare. Mi rappresenta Vito Vero, quello che manca. Con per dire, a tuo piacere, sa misura strisce. Ammirazione, perché è ricca senza rischi. A strada come ispirazione, ci trovi Dorione. Non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, dinte frase nostra, rivoluzione. Tizio suono poco, sai che è malamore. Ci trovi Dorione. Non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, dinte frase nostra, rivoluzione. Tizio suono nuovo, sai che è malamore. Casa Pina Cinta, caro Peppi Duma. E cellulare squilla, ne faccio guarda in schina. Quando costa, costa. E vira sotto a luce, a roba scava. A strada rata, una tesama, e non ci pare strano. E mano in mano, che figlio nuovo si fa un prima si fa rossi, che so sai che faccio rossi. I mostro qua, con fono a mano, aspettando cosa che rapara. Guardando i conto trasere, tutti i fratelli. Prima bene, ne pa morna, e sa bruciano. Fattramente in rima, non si sonna, e ci mandano. 1500 guardi e giù, ferma la maguna e lui, perché fa mano. Abietto a nulla, sacci capace, nudo via. Perché si porta a raggi miei sapire. Perché se tarantella si mangia la faccia mia. E non so stanco, e giù me danno, e giù me pia. A me rosa, e a me ricina musica. Tu come risci, cresco muscola e vena. E carica senza tabacco, senza una braccia faccio funera. Non nilla si fa l'uomo, che sa che tiene. Chi è di casa per re, chi vuole essere. Ci fa avere quanti complessi tene. Come la centra in casa, popolare. Qua di consonante, a di vocale. Sta male, l'ho potto buttare. Accenda nostra, Germani, poi non meglio. Pochi bagagli e storti in buste plastiche. Un buon guaggio, tutto uno stato che cappotto fa. Ma senza botte, è tutto a posto. Ho già vita cose, te vero è elegante. Te tenano un gun, sono ridicolo. Né dico nome loro, comunica, non scudi. Che l'amore è l'unico che adora ancora. E se perdi in Dorione, ci trovi in Dorione. Non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, dinte frase nostra, rivoluzione. Tizio suono nuovo, sai che è malamore. Ci trovo in Dorione. Non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, dinte frase nostra, rivoluzione. Tizio suono nuovo, sai che è malamore. Ci trovo in Dorione.

anche L38 Squat. Tutti e tutte con almeno 3 metri di distanza si balla sul posto, ballo del mattone. Minuti primi, siete all'ascolto di Radio Pirata 38, una diretta che in realtà è più viva nel fuori diretta. Quest'oggi davvero siamo accesissimi qua, ci stanno balletti scalmanati e tra l'altro sono in corso ben 3 workshop. Uno è come tagliare i capelli alla conduttrice di Radio Pirata 38, c'è un corso che è iniziato circa 2 giorni fa, terminerà con delle lauree, degli attestati che poi permetteranno a chiunque di intervenire sulla conduttrice, sui capelli della conduttrice. E poi l'altro workshop che è in corso nel laboratorio di serigrafia è come evitare le orecchie a sventola con le mascherine, quindi ci stanno delle persone che attaccano un nastro biadesivo dietro le orecchie, fanno vedere come si gestisce questa forte crisi. E poi c'è un corso di pollici per giocatori di PlayStation, c'è un duro allenamento in corso, gente sudatissima. Per favore, la distanza, ragazzi, la distanza. E ancora musica. Help me, Lord, to save human. Help me, Lord, to save human. danni personali inversi noi assuefatti a questo nulla, intossicati da una vita che ci allatta a stricrina in una culla radioattiva. Sorridete non curanti ma il massacro chiama, i vostri ragazzi sono già in mano, mercanti di carne umana. Il mondo crea gabbie e trappole, misura l'uomo con o senza comfort, ma col tempo di pagare il conto sei già morto. Fiano con un chip sotto pelle, chi via due identikit ad un satellite in orbita fra le stelle. Non si sceglie, non c'è fuga, io mi tengo la fame, perché il vostro pane quotidiano per me è vomito di cane. Un solo canto d'odio, un solo allarme, un solo grido, dagli autoparlanti un solo imperativo, distruggi il nemico. Dallo zenith senza uscita con lo sguardo basso, sotto controllo ovunque, questa è la legge, è il mio contrappasso. Ma nonostante cercano di indebolire, ogni colpo mi rafforza e riesco ancora a reagire. Sono schedato come voi del resto, dentro un database nascosto dove ogni persona ha un nome e un tetto. Quando vogliono ti comprano, loro sanno il tuo prezzo e possono eliminarti solo per un sospetto. Io, cittadino schierato contro un nemico, contro quello schifo che innesta nei cervelli lastre di silicio. Loro sanno bene chi sono e quello che scrivo, e inviano i miei dati buttati in binario verso il cibo. Non sono un numero per la loro calcolatrice, non riempo memorie, non sono una matrice nemmeno. Ho un piano chiaro, colpisco a random, e ciò che musica per me, per loro un rumore piano. Entriamo senza permesso e un'autorizzazione, siamo dedicata a tutta siamo potenza, siamo carna. Ci interessa la vostra opinione, ricetta gli ordini, avanti colpo su colpo sull'obiettivo. Entriamo senza permesso e un'autorizzazione, siamo l'ingranaggio per i difetti di fabbricazione. E adesso non ci interessa rispetto né comprensione, una reazione, un solo gesto istintivo, strutti nel mio obiettivo, nel mirino e tutto il resto conta poco, lo giuro. Questo è il futuro, nessuno sta più al sicuro, trafitti presidenti, giornalisti, ministri, consigli, per gli acquisti, banchieri, capitalisti, rischi di farne parte, ma in parte non è un problema se trema anche la terra dal nucleo quando è in cancrena mena. Le fondamenta alimenta questo problema, serve oggi era ancora per implodere il sistema, mentre trovo il modo migliore, intorno solo dolore, non c'è più amore, mentre scorrono le ore, sapore rabbia amaro ed è chiaro che sarò sadico, nervoso scosso dentro, mi sento sempre più acido. Dimmi che è pratico, vivo, lo dico e scrivo, il resto è sistematico, quando quasi all'arrivo, perché non sopravvivo ancora in questa situazione, il nemico sta sotto tiro, pronto per la distruzione. Apri gli occhi, ora sei mondo visione, telecamere filmano fuori, fuoco, fiamme e disperazione, storie nere scritte sulla carta vetro, una generazione che non crede, muta crescendo con gli occhi dietro. Non mi chiedo né credo al finale dietro, in questo posto dove nulla è nostro, mentre tutto è completo. Fila tra gli adolescenti, vedo, stanno per diventare esperimenti, macchine umane da manovrare. Loro stanno fuori a controllare il gregge, i loro schiavi portano sul petto una bella stella da fuori legge. Io non mi sento in grado, né sopporto un giorno là fuori, in questo mondo ingrato, ricco di vento, malato, spicco il volo. E se il nemico non ha un volto, resto sempre solo, perché gli altri non so chi sono, è garantito. Io non ho niente di positivo e non ci parlo con voi, vi dico solo quello che scrivo. Entriamo senza permesso e un'autorizzazione, siamo l'errore, siamo il nemico, siamo parte dell'antidoto. Adesso non ci interessa la vostra. Allora speriamo vivamente che potenza intera, quella città che ha pezzi di cuore anche da queste parti, al Laurentino, di fatto forse il cemento ci accomuna, abbia apprezzato questa dedica. L'abbiamo davvero pensata, studiata, abbiamo anche aspettato che preparaste gli aperitivi per poi ascoltare Radio Pirata 38, la vostra radio anche a potenza. E allora ne approfittiamo in quasi in chiusura della trasmissione d'oggi, che il tempo è volato, regà, incredibile. Ho detto poche stronzate e insomma siete anche fortunati, ma qua abbiamo un'intensa riunione da portare avanti di punti all'ordine del giorno. Ce n'è uno che ci è appena arrivato, ovvero di fare altro con le mani piuttosto che giocare con la PlayStation, ma qui la risposta corale è già fatto, quindi non c'è problema. Grazie comunque per i consigli, e venite, raggiungeteci. E niente, gli ultimi minuti me li prendo per mandare un abbraccio caloroso a chi ci ascolta, che c'ha parenti in carcere, proprio perché da ieri sera c'è stata una battitura che ha visto partecipare buona parte del maschile di Re Bibbia, e da oggi è iniziato lo sciopero del carrello in diverse aree del carcere di Re Bibbia. Quindi un abbraccio a chi ha la testa e il cuore in questi giorni ancora più concentrato nei confronti dei propri cari, che stanno portando avanti delle lotte ormai da giorni per riuscire a conquistare la libertà in un momento in cui la salute e la vita è in estremo rischio, proprio per il fatto che si è costretti tra quattro mura, ammassati dentro le carceri. Il nostro saluto, ovviamente, anche se non ci riescono ad ascoltare, è a chi ha portato avanti proteste, scioperi, rivolte in tutta Italia. Siamo con voi, dai regà. Si yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco, por no tener no tengo ni casa ni trabajo, mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo voy calle abajo, cantando in the night, in the night, in the night. Everybody take my way, I can never say forget. You don't love me every time you make me feel, you make me cry. Oh my darling, to my tears, oh my darling, set me free. You don't love me, I don't know, sweet darling. Prima difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmitting Brighton, transmitting Soul Street, Miss New Wyoming, tanto te vas. Yo matamos con Miss Mississippi, y matamos a Cristina Pranas. Transmitting Brighton, transmitting Soul Street, Miss New Wyoming, tanto te vas. Yo matamos con Miss Mississippi, y matamos a Cristina Pranas. Pedir permiso para ser libre, si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso. No somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento. Siento energía y movimiento, mira, somos viento, que es lo que somos en realidad. Somos viento, y contigo, y contigo, y contigo, viento. Your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars. Then for you I will play on my cosmic guitars. Ladies and gentlemen, fasten your belt since we has commenced our descent. I trust you enjoy this flight as much as you enjoy this accent. Now back on Earth, it's time for a down splash. Into sea of eternal glory my spaceship crash. People have arrived for to cheer me from near and far. And as I float, I open door and shout, I am world's biggest washed up superstar. Supersonic, electronic, as for sure as the sun rises in the west. Of all the singers and poets on earth, I am the bestest. Come, let me put a ring of Jupiter on your finger. Then like a smell around you, I will forever linger. Okay, it's time for end, no more will I say. Raga, grazie per queste selezioni, grazie. Fate sognare. Long live Space Race. Long live Mulvania. Faccia me torn, pure si canta una storia ver, o sto sbagliando, nessuno me crede, dica così per non morta accisa, via 30 anni non posso campare. Chi l'ero peggio ro quartiere, sfruttava gente rinda miseria, urtava guaiuna fasci per rapina, eppure avvennero l'eroina, dicette a me stessa si sai conta, cago cosa sa da fa. Fidere sabato sera, stava parlando con donna Carmela, all'altra sata arriva un famone, che non volete sentire ragione, sbattetta la porta e pia io portiella, e a donna Carmela stracciai a vunnella. Schifo che mi facette, restai fuori porte non me niente, e quando schifuse fernetto servizio, ma preparai per se fa l'uvoviz, pigliai a catena in un motorino, e m'assertai alla vicina, e quando un famone accette la porta, tenetto piacere se presenta morte. Non dicite niente, hai sbagliato, isto un galere, lascia stanato, carinda miseria, foscia calla, e niente le dice né mariscialla. Mariscialle e guapparie fanno una sola consurtaria, e chi pavorebbe da ca miseria, l'uomo racciso va in galera. Allora, da qui, dal sesto ponte del Laurentino 38, salutiamo i compagni e le compagne del Panciovilla, che tra l'altro ci rimbalzano un salutone alla bandita dell'Ardeatina, Feffa. Dai, dai. Check me out, yo. This is why I'm hot. I don't give a fuck. Yo, I kick it out, hope someone else is track. I represent South Africa, I put it on the map. South Africa, man, I like the guys back a while. When you say South Africa, the first thing that comes to mind is your racist and my apartheid. Crime, fuck a racist, motherfuckers are stuck in 89. Crime's the wildest, word to my nine. This is why I'm hot. Una De Picona, i cugini di campagna, cassa dritta e pedalare. Sta traccia sta arriva in campagna. Yo.

che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire. Allora vi leggiamo la dedica a Kate tombata ai castelli, ai compagni e alle compagne incarcerati, e noi aggiungiamo a tutti i detenuti, a chi non sa dove andare a dormire, a chi si ribella nonostante tutto, a voi. Non ci so stare se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce, tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone, che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Allora, bene, è giunta l'ora di concludere la diretta, ma prima abbiamo sicuramente un rincaro da darvi rispetto alla cassa dritta richiesta. Radio Pirata 38 non vi lascia soli e sole

andare, io non riesco a sopportare. Devo andare, io non posso più aspettare. Devo andare, io non riesco a sopportare. Devo andare, devo andare, devo andare, devo andare, devo andare, devo andare, devo andare, devo andare, devo andare, devo andare, devo andare, devo andare, devo andare, devo andare, io non riesco a sopportare. Poi saluto Elena delle Rose, Elena di Gino, Katia di Cinecittà, Roberta dell'Euro, Elisa di Cinecittà e Teresa della Nunziatella, Mimma di Cinecittà, Marisa di Cinecittà, e poi Ines e Chiara, Angela di Bagni di Tivoli, Annunziata e Giuliana della Magliana. È un augurio grandissimo alla cara Giuliana, una buona giornata a tutta la famiglia. E poi Rosa Mura e il piccolo Ivan, Adele di Roma Nord e papà Giovanni, Isa e Amalia della Garbatella, la cara Loretta, Nedi e Gidio e la dolcissima Laura, e il figliolo Carlo, tutta la famiglia, poi Corinne e Bruno e Sara, Ninetta e Rosina di San Lorenzo, Maria Teresa, la figliola, Rosario ed Elena nel villaggio olimpico, buona giornata anche a loro, Raffaele, Fiorella di Marino, Caterina di Pestaccio, Rosa Maria, il mammì, Tina Tofoni e Nino, Rossana dell'Alberone, Rossana del Tuscolano e Papa Pasquale, Mariella dell'Alberone, Augusta la Romagnola, e poi Santina, mamma Betta, Lucia e mamma Venia, poi nonna Sofia, Lucia della Marconi, Anna e Luana di Piazza Bologna, poi la signora Gerry, Aurelia e Guido, Clara di Cinecittà e Renatina, e poi basta così perché ne ho già fatti tanti. Io non è che li faccio tutti i giorni, però quando capita devo corrispondere a queste care ascoltatrici che mi salutano. Poi io il resto non si possono fare tutti, io saluto tutti coloro che... tutto l'ascolto al completo. Poi saluto tutte le nonnine e tutti i bambini della nostra radio. Tutti i nostri ammalati, un augurio grandissimo a Gaetana, a Marta di San Pietro, a Maria di San Camillo, al fuori San Camillo, tutti i nostri ammalatini. Poi un augurio a tutti i festeggiati, do un augurio che ieri non ci sono stata perché è stato il compleanno della mia nipotina, siamo stati fuori, a Nandone. A Nandone, Per le sue nozze d'argento, un augurio grandissimo, con tutto il cuore. Poi a tutti i festeggiati di oggi, Te che dirti, Lucianino? Cioè, Maurizietto? Sì. Che sei dolcissimo, basta, tutto qui.